La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, ben ritrovati alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti dal Salone del Risparmio di Milano. Vedo un sacco di gente qui che risparmia tanto in giro, si vede, si muove, hanno proprio la faccia dei risparmiatori. Sarà una puntata un po' speciale, parleremo di tutti i film come sempre che sono in sala in questo ricco fine settimana, parleremo anche di musical, perché arriva la nuova versione di Fame, Saranno famosi, ma parleremo anche di cinema e risparmio, di cinema e economia, perché siamo qua e vogliamo anche approfondire, lo faremo più tardi con la nostra trasmissione, questo tema, questo legame che c'è e c'è da tanto tempo. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Buongiorno. Sei uno che risparmia? No, ovviamente no, ecco, ho le mani più bucate di chiunque altro. Eppure pensa, sta per arrivare un periodo in cui anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando a caso in macchina risparmieranno, sì, andando al cinema, perché dall'11 al 14 aprile ci saranno 4 giorni di cinema, Cinema Days 2016, 4 giorni di cinema a bassissimo prezzo, perché si spenderanno 3 euro per i film, virgolette, normali, e 5 per quelli in 3D, quindi insomma anche noi vi facciamo risparmiare, noi del cinema, non siamo noi della Rose Purpure, ma insomma noi del cinema vi facciamo risparmiare dall'11 al 14 aprile con Cinema Days, potrete farvi la bella buffata a prezzi veramente molto molto ridotti. L'anno scorso fu un grande successo, 1.800.000 spettatori, speriamo e pensiamo che si ripeterà anche quest'anno. Ma invece non si è risparmiata la regina, quella notte del 45, la regina Elisabetta, quella notte del 45 in cui con la sorella Margaret eluse le sue guardie reali e andò a zonzo per Londra. Un episodio romanzato, vero, ma adesso romanzato, e portato sul grande schermo da Julian Gerald con Una notte con la regina, il primo film di cui vogliamo parlarvi. Lo fa per noi Chiara Pizzimenti. Sua Altezza Reale, la principessa Elizabeth e la principessa Margaret. Io e Margaret abbiamo il diritto di andare a festeggiare fuori di qui. Cosa c'è di tanto speciale? Non lo so e non lo saprò mai se non usciamo stasera. Lasciale andare. Yuppie! Stasera usciamo in incognito. Dite che la corona potrebbe tradirvi, principessa. Giorgio VI, sì, quello del discorso del re, scrisse sul suo diario: povere care, non si sono mai divertite. Proprio perché non avevano conosciuto la libertà e il divertimento, concesse alle figlie di uscire per una notte. Non una notte qualunque. La 19enne futura regina e la sorella 14enne Margaret ebbero il permesso di uscire da Buckingham Palace, dove avevano passato sotto stretta sorveglianza gran parte degli anni della guerra, la sera dell'8 maggio del 1945, la notte in cui ufficialmente il conflitto finiva e l'Inghilterra intera era in strada a festeggiare. Uscirono con 12 accompagnatori almeno. Fin qui è storia. Una notte con la regina trae ispirazione da questo fatto per raccontare la favola della principessa che incontra il borghese. L'una in punto, non un minuto più tardi. Mi comporterò bene. Margaret, scendi subito da quell'autobus! Sono 2 penny. Non ho denaro, mi rincresce. Mi state toccando. Tranquilla, non ho malattie contagiose. Come le ricordano le cronache, Margaret anche nel film è pronta a ogni follia, un po' incosciente. Lilibet, così viene chiamata familiarmente l'erede al trono, dimostra invece di avere la testa sulle spalle e ha la fortuna di incontrare un ottimo chaperon non ufficiale. Quelli scelti dalla regina li seminano subito. È un pilota che non sa ovviamente chi lei sia, ma che la aiuterà a recuperare la sorella. Hai fatto fare la figura dell'idiota. Ma non avevo scelta! Non avrei mai avuto l'opportunità di sentirmi normale. È stata la notte più straordinaria della mia vita. In un'intervista del 1985, Elisabetta ricordava di quella notte il terrore di essere riconosciuta e l'euforia dell'essere trascinata da una marea di felicità e di sollievo. Un po' screwball comedy nella parte della naif Margaret, molto vacanze romane in quella di Elizabeth con l'aviatore Jack. Tutto favolistico, fatto di coincidenze e un po' di teatro. È certamente tutto prevedibile, ma fa sorridere però. E questo è l'intento. Sarah Gadden è Elizabeth, Belle Powell Margaret, Rupert Everett fare Giorgio ed Emily Watson, la severa regina madre. E questa era Una notte con la regina, la prima delle proposte di questa settimana, che racconta appunto un episodio storico, che tra l'altro, come avete sentito, è anche quello in cui almeno so, è la data, il periodo storico attorno al quale si svolgeva anche il discorso del re. Quindi siamo sempre lì, chissà, improvvisamente il cinema inglese si è messo a raccontare quel frangente della sua storia del Novecento. Dicevamo prima, parleremo più tardi anche di cinema e di economia e della relazione, del racconto e del ruolo che ha avuto l'economia, il risparmio, eccetera, dentro molti film, anche dai più insospettabili, perché chiacchierando con Boris Sollazzo ieri nel preparare la trasmissione si diceva forse il primo film economico, diciamo così, della storia è Mary Poppins. Boris, tu ci credi ciecamente in questa affermazione? Ci credo ciecamente, perché se ci pensate, al di là della folcloristica presenza della Tata con la borsa più larga del mondo, in fondo anche quella borsa potrebbe essere metafora della borsa dei valori che tanto ci ha creato problemi o ci ha dato gioia a seconda delle azioni che avevamo, a un certo punto nel finale basta un penny per far crollare la Banca d'Inghilterra, che è forse la dimostrazione di come un risparmiatore possa essere decisivo nell'economia di un paese intero, o in quel caso addirittura di un impero. Se vogliamo, non è molto lontano da quello che vediamo succedere poi anni e anni, anzi decenni dopo, in Una poltrona per due, no? Con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Chiaramente è una battuta, ma fino a un certo punto, perché quella scena secondo me è una delle scene cinematografiche economiche più potenti che la storia ci ha regalato, forse proprio perché così naturale in quel film. Assolutamente, tra l'altro, come dire, l'aspetto metaforico di quel penny e di quella grande banca, insomma, ricordano un po' il famoso battito d'ali da una parte del mondo che scuote gli oceani e i terremoti dall'altra. Nello script di Mary Poppins questo fatto della banca è molto presente, e quando arriverà il momento, fra poco, ne parleremo anche con Leonardo Gandini, che è un esperto di cinema americano, ma anche scritto proprio sul tema della relazione fra economia e cinema nei film. Beh, vedrete che la banca ricorre molto spesso appunto anche in Mary Poppins. Adesso viabilità, fra poco torniamo insieme, andiamo avanti con le proposte cinematografiche di questo fine settimana con Il cacciatore e la regina di ghiaccio. La rosa purpurea. Seconda parte della Rosa Purpurea, riprendiamo quindi con le proposte del weekend, con un film che ha, diciamo, le ambizioni del colossal e la natura dello spin-off, possiamo dire, più che del sequel. Stiamo parlando del Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, film che diciamo prende le mosse sempre ormai, come è diventato un vero e proprio filone, dalla favola di Biancaneve. Stavolta ci soffermiamo appunto sul cacciatore, che avevamo già visto nei precedenti film con il volto di Chris Hemsworth, ovvero di Thor, e con la regina di ghiaccio, la cattiva del momento, Charlize Theron e Jessica Chastain insieme a Emily Blunt e Nick Frost per il grande cast. Sentiamo la clip e poi ne parliamo. Ora scoprirete. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Tu, mia regina, ma ancor per poco. Tua sorella ha una bambina che diverrà assai più bella di te. Pensavo di averti reso forte. Ma sei più patetica che mai, sorellina. Questo è il mio regno! Lo specchio è malvagio e pericoloso. Va distrutto. Insieme. E allora, questa la clip, Boris Sollazzo. Ci sono alcune stranezze, diciamo così, in questo film. Abbiamo detto un po' spin-off, un po' sequel di Biancaneve e il Cacciatore. Anzi prequel, se vogliamo, di Biancaneve e il Cacciatore, però in un film che comunque ha a che fare con l'universo di Biancaneve non c'è Biancaneve. Qui interviene anche la realtà, diciamo. Si prevedeva un sequel classico con Rupert Sanders e Kristen Stewart, ma come qualcuno ricorderà, che magari non si informa solo riguardo alle notizie cinematografiche ma anche a quelle di gossip, i due ebbero una storia adulterina, e questo, diciamo, ha fatto sì che entrambi fossero estromessi dal progetto, e permettesse da una parte al Cédric Troyan, e il regista, e dall'altra Emily Blunt, la regina di ghiaccio, di entrare nel progetto che diventa uno spin-off, perché poi è stato definito un prequel, ma è un prequel fino a un certo punto. Sembra più un sequel, perché lo specchio è stato distrutto. Diciamo che questa confusione, un po' derivante dalla realtà, un po' derivante dalla sceneggiatura, si porta avanti per tutto il film. Mi permetto di fare qualche secondo di recensione anche sul trailer, perché è criminale, l'unica vera svolta di sceneggiatura del film, l'unica vera sorpresa viene praticamente svelata dai primi secondi del trailer. Spero che lo vediate o lo ascoltiate con distrazione se volete andare a vedere il film, perché altrimenti il combinato disposto dei primi 10 minuti di film con quello che avete visto nel trailer vi toglierebbero per 2 ore il gusto anche di scoprire qual è la svolta di sceneggiatura decisiva. Detto questo, il film probabilmente sconta questa produzione tormentata, perché nonostante l'ottimo cast, perché Jessica Chastain è di sicuro una delle attrici più interessanti del panorama hollywoodiano, Emily Blunt è molto brava, qui si ritrova confinato nel ruolo di questa sorella di Ravenna è appunto la regina cattiva, Charlize Theron, che vediamo in qualcosa che è poco più di un cameo, che è diversa dalla sorella, è passionale, romantica, fino a che, appunto, avendo una sorella così, si scontra con le brutture della vita, trova in sé la magia che fino a quel momento non aveva scoperto in sé, e diventa una ferocissima antagonista della sorella, che vuole semplicemente dimostrare in particolare ai ragazzi che l'amore non esiste e che conta solo il potere. Boris, però stai, scusa, ti interrompo, perché però praticamente stai raccontando la trama di Frozen, cioè è una cosa clamorosa, cioè le sorelle, quella che poi si distacca perché è un po' tradita dalla vita, che scopre la magia e si confina in questo palazzo nel regno dei ghiacci, insomma, voglio dire, ci sono gli estremi per il plagio quasi. Ed era esattamente quello che stavo per dire, cioè che se appunto oltre al trailer e i primi 10 minuti del Cacciatore e la Regina di Ghiaccio voi vi siete visti anche Frozen, davvero non avete bisogno di continuare a vedere il film, e magari potete sgattaiolare in un'altra sala per vedere un altro film. Il problema è proprio questo, c'è una mancanza di originalità clamorosa, il carisma dei singoli personaggi è molto basso, è un colossal che poteva anche essere interessante se avesse scelto una strada autonoma che andasse appunto fuori da Frozen, fuori da quello che avevamo già visto, fuori dal seminato, e che invece diventa una favoletta senza molto costrutto, con una morale abbastanza improbabile e che si scioglie, mi dispiace, come ghiaccio al sole alla fine. E allora, questo è Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, un'altra delle novità al cinema di questo fine settimana. Noi a questo punto, sebbene in puntata speciale dal Salone del Risparmio qui a Milano, non ci dimentichiamo di giocare con voi, e anzi, altro che risparmio, qui siamo prodighi proprio, a man bassa. Ascoltate questa clip, diteci di che fine si tratta. Mi hanno addestrato a un'unica cosa, ma non ho niente per cui combattere. E allora, avete sentito, la clip è molto molto piccola, minimale, ma qui insomma la posta in palio è tanta, quindi dovete essere molto bravi, indovinare se l'avete già fatto. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo privato alla rosapurpurea@radio24.it. Provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Allora, parliamo di cinema italiano adesso, perché c'è un film che è arrivato nelle nostre sale, è partito subito abbastanza bene, affronta un genere che per noi in Italia non è un genere assolutamente familiare. Stiamo parlando del genere di macchine da corsa, film sull'automobilismo, sui motori, tra l'altro girato con una grande mano da un regista giovane che si chiama Matteo Rovere, con un ottimo Stefano Accorsi, ma anche una scoperta come Matilda De Angelis nel cast. Il titolo del film è Veloce come il vento, ascoltiamo la clip. Nostro Signore del sangue che corre nel buio delle vene. Reggi il mio braccio sul volante. La mia sorella. Non puoi tornare qua dopo 10 anni e dire che questa è casa tua. Ma ci avrò pure diritto anch'io ad avere qualcosa dalla perdita di un padre. Mio fratello è un ex pilota. Sinistra, destra e poi apri, quarta e quinta, bacca boia, c'ho tutto qua. Dove andiamo? Dove andiamo? Cosa facciamo? Perché, oh, bacca boia, Dumarò, liberatela quella testa. Guarda che quella è una gara da malati, da disperati. Guarda che disperati veri, si è rimasti in pochi. E questo Stefano Accorsi con Slang Emiliano, protagonista di questo film. Siamo proprio nel distretto dei motori, in quell'Emilia vicina fra Imola, insomma quella zona lì, i circuiti del Santerno, del Mugello, eccetera, dove si corrono queste corse automobilistiche, e nel Gran Turismo sembra eccellere questa ragazzina Giulia, che è figlia di un padre che stava nelle corse e aveva scommesso su di lei, ma è anche sorella di un fratello totalmente inaffidabile, tossico, sfatto, che è appunto Stefano Accorsi. E allora il miracolo si compie, il padre muore, la ragazza va avanti a combattere e a gareggiare per salvare soprattutto la famiglia, il fratellino, la casa, e dovrà in qualche modo fidarsi di questo fratello totalmente inaffidabile, che però pian piano mostrerà di avere un talento che l'alcol e la droga avevano totalmente seppellito. Una storia molto bella, recitata molto bene. Fra poco sentiremo tra l'altro l'intervista con Stefano Accorsi, realizzata proprio dal nostro Boris Sollazzo. Boris, però un paio di minuti per dirci perché è importante vedere Veloce come il vento. Secondo me, te lo anticipo, perché è un film di quelli che in Italia era capitato anche con Velocità Massima di Vicari, se ti ricordi, qualche anno fa. È quel tipo di film che in Italia non facciamo mai, ma tante volte li facciamo, e quando li facciamo funzionano molto bene. Ci sono tanti parallelismi: il fatto di scegliere un attore con un viso famoso e cambiarlo fisicamente, Santa Maria 10 kg in più, Accorsi 10 kg in meno, lo stesso direttore della fotografia, ed è fondamentale, come Michele D'Attanasio, che è davvero bravissimo. E che cosa otteniamo? La forza, la potenza, la velocità, l'adrenalina di un film che non ha nulla a che invidiare al cinema hollywoodiano e anche a tutti quei cinema che cercano nel ritmo, ma anche nella profondità emotiva, una storia che piaccia sia alla critica che al pubblico. Mi fa molto piacere per Matteo Rovere, che è un talento straordinario, che con Un gioco da ragazze aveva scontato una sceneggiatura non straordinaria, che con Gli sfiorati non era stato capito, e che qui trova, secondo me, piena realizzazione sia al suo talento sia alla sua idea di fare cinema. E permettetemi di dirlo, è nata una stella, Matilda De Angelis, che qui canta anche una canzone, ne sentiremo parlare a lungo, sa anche un ottimo inglese, e Stefano Accorsi forse ha la sua prova più bella in assoluto, con questi capelli lunghi, sporchi, i denti ingialliti, imbruttito, ma potentissimo nel raccontare quello che poi è Carlo Caponi, il ballerino, un mito del rally che rivive in tutti i suoi nervi, in tutte le sue manie, in tutta la sua forza. Assolutamente, tra l'altro fra poco lo sentiremo appunto Stefano Accorsi, perché tutto è tratto da una storia vera e un profilo, un personaggio realmente esistito. Allora, linea alla regia, fra poco torniamo, Stefano Accorsi alla Rosa Purpurea. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea torna, terza parte del nostro programma. Allora, è il momento di ascoltare Stefano Accorsi per la sua performance in Veloce come il vento. Come dicevamo, film di velocità, di corsa, che ricorda un po' Rush, ma ha dentro anche un po' di, come dire, storie alla Rocky, alla Flashdance, di quello che proprio dal fondo, dopo averlo toccato il fondo, risale e ce la fa. E allora andiamo ad ascoltare Stefano Accorsi al microfono di Boris Sollazzo. Stefano, questa è forse la parte che meno mi aspettavo da te, e forse però è stata la tua più divertente e faticosa. Faticosa e divertente, hai detto bene, è stato davvero appassionante, fin dalla lettura del copione, tutto il lavoro di preparazione e poi le riprese. Sempre grande fatica, ma sempre grande divertimento. Come è nato questa collaborazione? Cioè, quando Matteo ti ha dato il copione, che cosa hai provato leggendo il copione? Perché onestamente è una cosa che un attore italiano normalmente non si trova davanti. Ma guarda, la prima volta che qualcuno me ne ha parlato è stato Domenico Procacci, che mi ha mandato il copione, l'ho letto, e quando ho incontrato Matteo, avendo già letto il copione, devo dire che gli ho semplicemente detto: il copione è meraviglioso. È vero quello che dici, non si leggono spesso, si leggono raramente dei copioni così ben scritti, e poi su una storia così atipica, perché abbiamo tutta una struttura di mondo delle corse automobilistiche, però in primo piano c'è tutta una storia di famiglia che si ricompone, quindi grandi emozioni, e mescolare queste due cose in un modo così organico è molto molto raro, secondo me. Senti, tornare alla lingua madre, alla vera lingua madre, quella della madreterra, com'è stata? Mi è mancato tanto, me ne sono reso conto facendo il film che mi mancava tanto. Quando torni alle tue radici, comunque racconti dei pezzi di te che forse è più difficile raccontare in altri modi. Io so che a te piace andare anche sulle due ruote oltre che sulle quattro ruote. Come ti sei ritrovato a dover raccontare una storia di velocità e anche a viverla? Ma guarda, è vero, i motori comunque fanno parte anche essi della mia cultura, come la lingua, cioè in Emilia Romagna abbiamo di tutto. E quindi è una parte proprio della nostra cultura che poter rappresentare in questo modo, e quindi poter andare a fare corsi di guida, avere Paolo Andreucci come 9 campione italiano di rally, come maestro di guida piuttosto che altri in pista, cioè è veramente un'esperienza incredibile. Ma io mi sono divertito, anche se poi ti rendi conto di quanto pilotare sia un discorso e guidare con gusto e con divertimento sia un altro. L'ultima domanda sono quegli 11 kg, come hai fatto a perderli e quanto ti è costato? Perché non credo che sia stato facile tenerlo quel peso forma. No, è stata dura, devo dire, anche perché è stata una perdita di peso che ho dovuto fare a ridosso delle riprese, perché per tanto tempo non si può tenere un peso così innaturale per la propria costituzione, e quindi è stata bella tosta. Diciamo che ho passato davvero un mese infernale. Quando ho ricominciato a mangiare, perché veramente non scenderò nei dettagli, ma per 3 settimane non ho potuto mangiare altro se non liquidi, la prima pera l'ho fotografata e adesso ho la foto incorniciata in casa. Ti svegliavi anche alle 3 del mattino, è stata dura veramente. Sì, sì, sì. No, è stata durissima, però ne è valsa la pena. È un film, secondo me, bellissimo, molto coinvolgente, molto emozionante, come raramente capita di farne. Grazie. Grazie a te. E allora, Stefano Accorsi al microfono di Boris Sollazzo. Aggiungo un'ultima cosa su questo film: mi hanno detto dell'enorme esordio di Matilda De Angelis. Adesso non ricopriamola di troppe responsabilità, ma ha veramente un volto, andate a guardarvi anche le foto, un volto che ricorda tantissimo quello della prima Jennifer Lawrence, quella di Un gelido inverno, per intenderci. È una ragazza, come ha detto giustamente Boris, di cui sentiremo parlare. È arrivato il momento di giocare con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Ho vissuto abbastanza a lungo da vedere gli stessi occhi in persone diverse. Io vedo i tuoi occhi. Conosco i tuoi occhi. E allora, siete pronti? Avete indovinato di che film si tratta? Scriveteci la vostra risposta alla Rosa Purpurea @radio24.it. Provate a vincere uno dei due Blu-ray che sono lì per voi e che sveleremo la prossima settimana con uno dei film più attesi di questa stagione. Facciamo una breve incursione nel musical, perché a Milano, al Teatro Nazionale, dallo scorso 7 aprile e per un buon mese, torna la saga che è stata prima cinematografica, poi televisiva con una serie di telefilm davvero famosa, poi teatrale con il musical in lingua inglese, e poi ancora ha avuto anche un sequel cinematografico. Stiamo parlando della saga di Fame, che appunto torna in una nuovissima versione firmata da Federico Bellone al Teatro Nazionale di Milano. E noi, tutte le volte che il musical incrocia, rincrocia il cinema, è un rapporto molto stretto, fra poco arriverà anche Jersey Boys, bene, ne parliamo perché ci sembra giusto. E allora ascoltiamo l'intervista con Federico Bellone. c'è un film e c'è una serie TV. Forse la popolarità in Italia è più dovuta alla serie TV che al film, almeno in quelle della mia generazione, no? Che in televisione videro le avventure di Martelli & Co. Quanto è rimasto impigliato in questo copione di quel film degli anni, fine anni 70, inizio anni 80, di quei personaggi, di quella musica? Quanto cinema c'è? È un best of di tutti e due, del film e della serie televisiva, quindi è stato riscritto completamente, ambientato dopo gli anni 80, dopo il 1980, scusami, quindi dall'81 all'84, e quindi con personaggi che hanno visto il film. E quindi è un best of di quelle due, di quei due ambienti, diciamo. Quindi c'è un riferimento continuo ai personaggi del film. Esattamente. Quei personaggi avevano una dimensione quasi epica per noi quando eravamo ragazzi, perché erano ragazzi di estrazione popolare che ce la facevano nella grande New York. Quanto è cambiata quella storia oggi? Tu di ragazzi di questo tipo ne vedi tanti. Quanto è più facile, quanto è più difficile oggi? Oggi è più difficile, perché all'epoca, anche se c'erano magari meno produzioni, quindi meno offerta, c'era molta meno domanda e quindi passavano chi lo voleva veramente. Adesso, con appunto i media che propongono appunto tanti esempi di spettacolo come i talent show, sono molti di più quelli che vogliono farcela e quindi molti di più quelli che rimangono a bocca asciutta. I personaggi di quel film sono personaggi archetipi, no? Sì. Cioè il ragazzo di colore, l'italiano, eccetera, eccetera. Anche negli insegnanti c'è molto questo stile. Come si trasferisce questo archetipo su un palcoscenico? Beh, devo dire che è tutto fortuna della scrittura, perché i personaggi sono scritti così. Pertanto, se non c'è Leroy Johnson, c'è Tyrone Jackson, che è un altro ragazzo esattamente come Leroy Johnson. Non c'è appunto Bruno Martelli, ma c'è Shlomo Metzenbaum, che è esattamente la stessa cosa, proprio anche a far vedere che le generazioni passano, più che altro gli anni passano, e c'è sempre in realtà la stessa realtà. Scusa il gioco di parole. Senti, per te che cos'era invece quella serie? Te la ricordi? Tu sei giovane, però voglio dire, forse te la ricorderai già. No, me la ricordo benissimo, perché ero un bambino, però la guardavo. Era, un'altra ispirazione per voler fare questo mestiere, quindi ero molto curioso di vedere come si muovevano i personaggi per arrivare al loro obiettivo. Senti, la canzone che tu hai tenuto in lingua originale, quella canzone Fame, che fu cantata da Irene Cara ai tempi, dice I wanna live forever, no? Lo spettacolo oggi è una forma per arrivare all'immortalità, vivere per sempre. Diciamo forse il cinema e la televisione, il teatro di meno secondo me, perché il teatro viene rappresentato e poi scompare. Forse nei libri di storia vorresti intendere. Non lo so, io credo che da parte mia, per esempio, è un grosso piacere. In queste settimane, in questi giorni in particolare, sono molto molto stanco, però non farei mai a meno di questo mestiere, perché mi dà gioia. E pertanto per me vive al momento, non è un fatto di rimanere nel firmamento delle stelle, proprio non... Quindi forse anche in questo senso i tempi sono un po' cambiati, no? Forse sì, sai, anche il divismo, tu lo sai meglio di me, non c'è più, no? Una volta il tempo di Marilyn Monroe è diverso dal tempo di ora di Brad Pitt, no? L'idolatria è comunque cambiata in maniera sostanziale, tant'è che adesso uno spettacolo, anche, non sempre, ma a volte anche con dei grossi nomi famosi, non è detto che funzioni. Se potessi con la bacchetta magica o con la macchina del tempo portare uno di quei personaggi del telefilm sul tuo spettacolo, sul tuo palcoscenico, chi ruberesti? Amatullo, perché mi fa tanto ridere. Sì, era molto, molto buffo, molto simpatico. E allora questo è Fame, il musical al Teatro Nazionale di Milano, già da questa settimana all'esordio e poi appunto per un buon mese. Abbiamo ancora un paio di minuti, Boris, per parlare di Victor, perché evidentemente è settimana di storie archetipe. Abbiamo parlato di Biancaneve prima con quello spin-off e qui siamo a un ennesimo taglio, un ennesimo punto di vista invece sulla storia del dottor Frankenstein con Victor. Ascoltiamo la clip. Sogno un mondo dove la speranza sostituisca la paura. Dove uno storpio possa guarire e tornare a camminare. Se potessimo dare ad ogni vita la possibilità che merita. Igor, aiutami a cambiare il mondo. Victor, mi avevi promesso che l'avresti usata solo per la vita. Si tratta di molto di più. Brucerà all'inferno! E ci sono Daniel Radcliffe, James McAvoy nel cast. Boris, cosa aggiunge, qual è la novità, almeno una, di questo nuovo Frankenstein? Ma aggiunge troppo e alla fine quindi non aggiunge niente. La novità sicuramente è il punto di vista, quello di Igor, appunto, che questo clown deforme che soffre per amore, che è una specie di Quasimodo quasi nel circo in cui lavora e che poi appunto viene riscattato in tutti i sensi da Victor. Il punto però è che Victor Frankenstein poi non aggiunge realmente nulla all'epopea di Frankenstein, alla forza metaforica di una storia che lo abbiamo già detto in altre occasioni quando trattavamo o rifacimenti o ispirazioni del capolavoro di Mary Shelley, che appunto non riesce a inserirsi nel dargli un taglio moderno, nel dargli un taglio potente, e purtroppo lo fa perché a mio parere il regista si ostina a voler stupire lo spettatore con effetti e affetti speciali. Dall'altra parte il tentativo di una struttura narrativa intimista, sono tutte cose che mal si sposano l'una con l'altra, quindi rendono questo Victor Frankenstein un minestrone, veramente un Frankenstein cinematografico. C'è troppa confusione anche qua per poi trovare una direzione reale, e alla fine diventa quello che magari in un gergo non troppo tecnico chiameremmo un papocchio, punto e basta. Gergo non molto tecnico, ma sicuramente molto efficace. Boris, grazie per essere stato con noi anche oggi, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Ancora Viabilità, fra poco di nuovo insieme a parlare appunto del rapporto fra il cinema e l'economia qui dal Salone del Risparmio con Leonardo Gandolfi. La rosa purpurea. Questi sono i miei figli, signor Dodo. Lo avevo immaginato, ma perché sono qui? Desiderano aprire un conto corrente. E di quanto denaro dispone il giovanotto? 2 penny, però ci voglio dar da mangiare ai piccioni. 2 penny? Benvenuto nella nostra felice famiglia di correntisti. Ridammeli, ridammi i miei 2 penny. E insomma, l'aveva detto anche il vecchio Mary Poppins, insomma, che il ruolo del risparmio qual era. Dal Salone del Risparmio qui di Milano la Rosa Purpurea è arrivata nella sua parte finale e vogliamo proprio farla una considerazione su questo tema, su come questo tema abbia pervaso sia dal punto di vista dei piccoli risparmiatori come i bambini di Mr. Banks e di Mary Poppins, ma sia anche raccontando la grande storia, quella contemporanea, con un film anche recente, per esempio, come La Grande Scommessa, come questa relazione sia diventata cinema e in quale funzione. Per farlo noi ci avvaliamo di un amico, ma anche di un grande conoscitore del cinema americano che ha anche avuto modo di confrontarsi con questa tematica, che è Leonardo Gandini, che saluto. Ciao Leo. Buongiorno a tutti. Allora, che relazione c'è? Cioè, quanto e come il risparmio, le banche, le grandi crisi economiche, eccetera, sono diventate film? Quali aspetti, diciamo, drammaturgici il cinema Hollywood, il cinema indipendente, hanno saputo tirar fuori da queste storie per farle diventare celluloide? Ma diciamo che fondamentalmente il cinema ha lavorato sempre con grande profitto su sentimenti di ostilità verso le banche o comunque situazioni nelle quali le crisi economiche venivano attribuite a comportamenti più o meno pregiudicati della finanza, di cui la banca è un po' il simbolo e il corrispettivo spaziale. Sono rari i film nei quali i banchieri si prendono effettivamente a cuore le sorti dei risparmiatori nei momenti di crisi, e invece molto più frequenti i film nei quali le persone che lavorano in banca sono prese di mira da rapinatori, gangster e figure che in qualche modo non vengono sempre tratteggiate in maniera negativa. Per esempio per un film molto famoso come Bonnie and Clyde, ambientato all'epoca della Grande Depressione, dove il rapinatore di banca nella sua trasgressività, nella sua irriverenza, viene considerato una sorta di Robin Hood moderno. In tempi più recenti invece la grande bolla speculativa, la crisi del 2008 eccetera eccetera, hanno avuto il sapore anche al cinema della class action in qualche senso, no? Il cinema americano di queste cose si occupa. Il film più recente è La Grande Scommessa, dove i problemi sono dei problemi di rappresentazione visiva. Cioè, il grande problema dell'economia contemporanea, quando viene trasposta al cinema, è un problema di visibilità, anzi di invisibilità. Cioè, i flussi economici sono dei killer silenziosi. I soldi si spostano, arrivano, si accumulano e spariscono secondo modalità che ormai non hanno più nulla di visivo e sono completamente virtuali. Quindi diventa veramente molto molto difficile per il cinema lavorare qualcosa che non ha un corrispettivo al visivo al di là dei flussi sui monitor di computer, che però sono, come dire, tutt'altro che spettacolari. Da qui il tentativo di trovare delle forme alternative. La Grande Scommessa mi sembra un esperimento interessante perché lavora in qualche modo sul talento degli interpreti, sul trasformismo degli interpreti, sulla capacità degli attori con le loro performance di rendere appassionante qualcosa che però nel suo nucleo centrale, nella sua essenza, è antispettacolare, perché questi flussi economici sono obiettivamente invisibili e quindi non esistono più le banconote, non esistono più le casseforti, non esistono più dei corrispettivi visivi ai quali il cinema possa ancorarsi. Mi chiamo Jordan Belfort. L'anno in cui ho compiuto 26 anni ho guadagnato 49 milioni di dollari, che mi ha fatto molto incazzare perché con altri tre arrivava a 1 milione a settimana. Ci stiamo facendo un nome. Nessuno sa se la borsa va giù, oppure su, o di lato, o in circolo. Lo sai che vuol dire fugesi? No, fugasi, sì, che è falso. Ok, fugesi, fugasi, fugace, volante, polvere di stelle. E allora con Wolf of Wall Street, un altro dei film recenti che hanno raccontato questi improvvisi arricchimenti e improvvise cadute nel mondo finanziario, salutiamo Leonardo Gandini, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. E allora, è arrivato il momento di occuparci invece di cinema da vedere in casa, cominciando con il risolvere il game della scorsa settimana. Io credo che i nostri più fondati motivi per un ricorso siano costituzionali. C'è una valida possibilità che la Corte Suprema consenta di riesaminare il caso. E allora si trattava di uno dei film più belli di questa stagione, almeno fino adesso, Il Ponte delle Spie di Steven Spielberg, con Patrizio Castellucci di Pisa e Flaminia Maradini di Carpaneto Piacentino, che vincono il Blu-ray di questo film che ci facciamo raccontare dagli amici di Film TV, da Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, mentre è stato rilasciato il trailer dell'ultimo film di Steven Spielberg, Il Gigante Gentile, esce in Blu-ray e DVD Il Ponte delle Spie, firmato da Spielberg e scritto anche dai fratelli Coen. È un grande film di retorica americana, ambientato durante la Guerra Fredda, con Tom Hanks che risolve un intrigo burocratico e politico e salva l'ennesimo soldato Ryan della storia americana, rinsaldando i grandi valori democratici. Della versione on video si può dire veramente solo tutto il bene possibile, si va veramente da una grande eccellenza tecnica a extra di alto profilo, soprattutto nella versione Blu-ray che è più ricca, tra interviste al cast e documentari storici. E questo per quel che concerne allora Il Ponte delle Spie, il nostro game della scorsa settimana. In TV invece, dai palinsesti della prossima, lunedì 11 aprile, un film da riscoprire di John Carpenter come Starman sulla 7D alle 23:10. Sì, lunedì 11 alle 23.10 sulla 7 di Starman, che è veramente un film eccentrico per John Carpenter, il regista di La Cosa, Distretto 13, Fuga da New York. È un film, per rimanere in tema con quello che abbiamo detto prima, di matrice spielbergiana, cioè la storia di un alieno che prende le sembianze di un defunto e convince la vedova di questo ad aiutarlo a raggiungere l'Arizona, dove deve rincontrare i suoi simili, tornare a casa come E.T. Siamo di fronte a un mix di fantascienza e commedia, road movie e familismo strappalacrime, qualcosa che sta veramente tra una tenera ingenuità e una parodia non so quanto sottile. È assolutamente un UFO da recuperare. E questo è il film Starman di John Carpenter. Invece, mentre nelle sale, ancora in qualche sala, è possibile vedere, e non perdetelo, il film Hitchcock Truffaut, la storia di quell'intervista che ha cambiato la storia del cinema, ma anche la storia dell'editoria sul cinema, regalandoci uno dei momenti più belli, appunto, per spiegare l'un l'altro il cinema della macchina hollywoodiana con quello d'autore europeo. Ebbene, le televisioni si accorgono di Truffaut e Hitchcock e ci regalano parecchi film durante questa settimana. Qual è il menù, Giulio? Giovedì notte L'amore fugge su Rai Movie alle 2.30, che è l'ultimo straordinario capitolo, quello della presunta maturità della saga dedicata da Truffaut ad Antoine Doinel, che è interpretato dal suo alter ego e figlio putativo Jean-Pierre Léaud. Venerdì pomeriggio alle 16.05 su Rete 4 invece Il sipario strappato, Spy Story da guerra fredda, anche qui un'anomalia per Hitchcock, che tra l'altro ebbe diversi problemi col divo Paul Newman, ma che è comunque un ennesimo saggio sulla manipolazione emotiva dello spettatore e sulla mistificazione della storia. E infine I 400 colpi su TV 2000 alle 21, sempre venerdì, il primo capitolo della saga Doinel, forse il più grande capolavoro dedicato all'infanzia, il primo film di François Truffaut. E allora, questo per quel che concerne allora la trilogia, il trittico di film che ci proporrà la televisione la prossima settimana su Truffaut e Hitchcock. Ciao Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della Rosa Purpura in collegamento qui con il Salone del Risparmio di Milano. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, come sempre il sabato alle 18 qui su Radio 24, tutto il cinema che c'è.